e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Voglio raccontare questo retroscena agli amici da casa. Adesso sentiamo un po', colpisco Nicoletta con questo racconto effetto delle nostre speciale. Cose personali. Abbiamo avuto una bellissima riunione ieri con il nostro capo, che ci ha presentato i risultati di un'analisi che un gruppo selezionato di ascoltatori appunto ha fatto sul nostro programma e su altri di Radio 24. Sono monitoraggi periodici che vengono fatti per avere un riscontro diretto rispetto a quello che le persone che ci ascoltano sentono. E cosa è successo sul nostro programma? Che in molti hanno detto: sì, siete molto bravi, simpatiche, tutto quello che volete, ma a volte, soprattutto per i temi finanziari, utilizzate ancora un linguaggio complicato, tecnico, facciamo fatica, vogliamo delle informazioni essenziali, e questo è un po' quello che la gente pensa. Anche per la salute non si sono risparmiati. Per cui noi ancora una volta da oggi ripartiamo con una nuova veste di Cuore e Denari, linguaggio più comprensibile ai nostri ascoltatori su questi argomenti, che sui soldi vogliono veramente avere un accesso semplificato. Lo sanno molto bene le due ospiti con i quali interagiremo questa mattina nella parte di denari, ma che è un tema molto anche di cuore, perché quando le nostre finanze vanno male, un infarto è sempre lì sul dietro l'angolo. Vero Nicoletta? È vero, la preoccupazione, esatto. La preoccupazione veramente ci fa stringere il cuore in modo figurato, ma ci sono delle ricadute anche sulla nostra salute, sfera emotiva e si dice, appunto, mi è venuto il coccolone un crepacuore. E allora parleremo di tutto questo oggi, ma anche di un'altra grande iniziativa che viene presentata qui in occasione del Salone del Risparmio, perché oggi formalmente partono gli stati generali dell'educazione finanziaria e verrà fornita proprio fra un paio d'ore una fotografia aggiornata sul livello di alfabetizzazione finanziaria del nostro paese. Si cercherà di mappare i progetti già esistenti e analizzare le ragioni del nostro ritardo in materia di educazione finanziaria, perché l'Italia è un po' costantemente fanalino di coda di tutte le iniziative, di tutte le classifiche che vengono stilate sulla preparazione finanziaria appunto degli italiani. E quindi cercheremo anche un po' di capire quali sono i modelli internazionali di successo per valutare se l'Italia può tendere verso questi modelli oppure deve crearsene uno suo. Buongiorno e grazie per essere arrivata da noi, ad Anna Maria Lusardi. Io vorrei raccontare tutto il curriculum che lei ha, ma dovrò sintetizzare moltissimo. Viene ritenuta la maggiore esperta di educazione finanziaria al mondo. So che lei però è molto molto modesta e magari una carica così ridondante non le piace, ma lo è nei fatti. Professoressa Lusardi, grazie di essere con noi. Sono molto contenta di essere qui, grazie a voi di avermi invitato. Arriva direttamente dall'Università di Washington, ma è italianissima di Piacenza, per cui un cervello in fuga da qualche anno a questa parte. Noi cercheremo in qualche modo di convincerla a ritornare qua in Italia, chissà se ce la faremo. E peraltro ricordo anche questa cosa, che proprio di recente il New York Times l'ha indicata come una dei 6 economisti più influenti nel momento, capaci di incidere davvero sul sistema finanziario. Dovremmo cercare la ricetta giusta stamattina, professoressa Lusardi, per appassionare un po' di più gli italiani su questi argomenti che ancora considerano un po' indigesti. Poi magari faremo una bella riflessione con lei. Però saluto anche Magda Bianco. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, è titolare del servizio tutela dei clienti antiriciclaggio della Banca d'Italia, membro della Commissione Pari Opportunità della Banca d'Italia, consulente del Presidente della Repubblica Mattarella sulle tematiche di politica economica. Oggi ci racconterà le iniziative della Banca d'Italia sul tema di educazione finanziaria, tema per il quale lei ha avuto una simpatica audizione al Senato, giusto? Esatto, ieri mattina. Ieri, hanno trovato anche il tempo di fare questo ieri in Senato, quindi hanno un po' a cuore questi argomenti. Come mai questa audizione, dottoressa Bianco? Perché si sta discutendo in Senato di un disegno di legge sul tema dell'educazione finanziaria e quindi abbiamo una grande attenzione anche politica su questo tema. Che contenuti ha questo decreto? Che cosa vorrebbero fare? No, perché ci interessa, perché siccome poi queste iniziative avranno ripercussione concreta sui cittadini, noi a Cuore Denari dovremmo fare un sacco di trasmissione, si conosciamo in anticipo, ci portiamo avanti, ci facilita il lavoro. Certamente, il disegno di legge vuole cercare di costruire un framework nazionale condiviso per portare avanti iniziative di educazione finanziaria strategiche per il paese e quindi propone di costituire un comitato tra diversi soggetti con un fondamento legislativo per portare avanti dei progetti sia per i ragazzi che per gli adulti. Peraltro molte iniziative ci sono già, poi magari faremo anche una veloce lista della spesa. Il tema è, credo, razionalizzare allora tutto quello che è già preesistente, dottoressa Bianco, e quindi avere un po' un punto di riferimento unico per tutte le iniziative che vengono portate avanti da molti soggetti e anche su vasta scala, appunto, a livello nazionale. Nicoletta, cosa vogliamo sapere dai nostri ascoltatori? stamattina. Tu che sei sempre un po' il mio punto di riferimento. Dice sempre, io non so. Poi vi racconterei cosa ha fatto per comprare casa sua qualche tempo fa, che mi ha messo in croce il notaio, altro che non so, sapeva tutto. Perché io la metto alla prova, sono il suo coach, faccio finta di non sapere, ma mi faccio suggerire dalle tue esperte. Ma io penso che questo sia un tema molto affascinante, avvincente, sfidante. Io chiederei proprio alle nostre, posso dire amiche, perché tra l'altro oggi abbiamo proprio un gineceo. È vero. Di che cosa vorreste sentirvi chiedere dai nostri ascoltatori? Come li sfidereste? Come li incuriosireste per aiutarli a parlare con voi di un tema da cui tante volte prendiamo le distanze, ma che poi quando conosciamo sappiamo che è intrecciata la nostra vita, un po' come i numeri, no? Professoressa... Ci sono delle persone che se ne però poi il numero sono ovunque, no? Infatti. Professoressa Lusardi, lei che con il suo centro che ha fondato negli Stati Uniti, poi spiego anche come si chiama perché ha una definizione un po' lunga, fa tanti sondaggi su una platea vastissima, cosa chiede alle persone quando le sonda, appunto? Ma noi chiediamo in sostanza la conoscenza dei principi di base della finanza, proprio l'ABC della finanza, perché è quella che è fondamentale per prendere le decisioni finanziarie. E quindi, ad esempio, nei sondaggi che abbiamo fatti abbiamo chiesto la conoscenza dell'interesse composto, la conoscenza dell'inflazione ed in particolare la conoscenza del rischio. Tutte le decisioni finanziarie e la maggior parte, anzi, si riferiscono al futuro, che è incerto. Quindi ogni decisione finanziaria implica una conoscenza del rischio che è fondamentale. Quindi sono questi, diciamo, i concetti che noi abbiamo guardato e che abbiamo chiesto in tantissimi paesi nel mondo. Certo. Senta, questo divario tra l'Italia e le altre principali economie sviluppate, quanto è ampio? Siamo davvero così arretrati? Siamo in una condizione così negativa in termini di preparazione finanziaria quando ci riferiamo al cittadino italiano? È proprio per questo che è importante fare i sondaggi, per capire quali sono le situazioni, per capire qual è il livello di conoscenza finanziaria. E dal punto di vista della conoscenza finanziaria l'Italia è diversa e si caratterizza, diciamo, rispetto anche ai paesi del G7 per una conoscenza finanziaria molto bassa. Noi l'abbiamo addirittura valutata al 37%, ovvero soltanto un terzo, uno su tre degli italiani ha una conoscenza finanziaria di base. Stiamo proprio parlando dell'ABC, non degli esperti. E quindi sono risultati allarmanti, non solo perché la conoscenza finanziaria è così bassa, ma è bassa anche per i giovani. E questo significa che non solo le persone adesso sanno poco, ma anche le generazioni future, se non si interviene, non sono preparati in un certo senso ad operare nel mondo moderno, dove i mercati finanziari sono molto più sviluppati che nel passato e molto più complessi. Molto importante questo messaggio sui giovani, perché ieri un passaggio nella sua relazione anche Mario Draghi ha dedicato appunto ai giovani di questa generazione, che si rischia che sia appunto una generazione perduta, speriamo di no, giovani che vengono monitorati costantemente sull'educazione finanziaria da un'altra grande indagine internazionale, che è l'indagine PISA, no? Professoressa Lusardi. Sì, è stato molto significativo che nel 2012 PISA abbia aggiunto alle materie di base testa ogni tre anni, e sono principalmente la conoscenza della matematica, il saper leggere e la conoscenza della scienza, la conoscenza finanziaria. E questo vuol dire che per operare nella società moderna i giovani devono sapere anche la finanza, oltre a saper leggere e scrivere. Infatti noi diciamo sempre, mentre nel passato non si poteva, se si pensa all'analfabeta, anche se è una persona intelligentissima, un analfabeta oggi non può partecipare alla società, non è capace di partecipare pienamente alla società, e così è per la conoscenza finanziaria. Certo. Occorre avere l'ABC della finanza per saper partecipare nel XXI secolo, questo ha detto l'OCSE. Da queste rivelazioni OCSE, a cui hanno partecipato 18 paesi, tra cui 13 paesi OCSE e tra cui l'Italia purtroppo tra i giovani è arrivata penultima, appena sopra la Colombia. Allora ragazzi, datevi da fare, ce ne sono molti questa mattina che partecipano al Salone del Risparmio. Abbiamo visto scuole proprio. Infatti anche all'ingresso questa mattina. E poi per quello che riguarda i nostri ascoltatori, allora facciamo il simil sondaggio di quelli condotti da Anna Maria Lusardi. Sapete che cos'è l'interesse composto? È già difficile e come dire, già come definizione. Sapete darci una definizione di inflazione, la terza opzione che abbiamo dato? Il rischio. Visto che sei attenta e concentrata, hai fatto yoga pochi minuti fa, d'altronde. Quindi 800 24 00 24, se volete interagire con noi. Devo prendermi un minuto di pausa per raccontare la borsa, la racconterò nella modalità più semplice possibile. Hai fatto la respirazione? Ci provo, adesso dai. Guarda, mi metto un attimo in posizione loto e vado. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. E i Pink Floyd ci ricordano che poco fa stavamo parlando proprio del livello di alfabetizzazione finanziaria dei più giovani, quella dei quindicenni. Il livello dei quindicenni mostra che tra gli studenti dei paesi OCSE partecipanti ad una importante rilevazione, si chiama PISA, gli italiani sono tra i meno preparati, ce l'ha raccontato poco fa la professoressa Anna Maria Lusardi dell'Università di Washington, che oggi parteciperà qui al Salone del Risparmio alla presentazione, al lancio degli Stati Generali dell'Educazione Finanziaria in Italia, ed è anche presidente, ha fondato nel 2010 il Global Financial Literacy Excellence Center, GFLEC, per chi volesse andarlo a cercare su internet, e noi lo abbiamo già veicolato sui nostri social network per capire se può essere anche dottoressa Magda Bianco della Banca d'Italia. Una buona iniziativa anche da esportare in Italia? Assolutamente sì. La dobbiamo replicare, la copiamo? Assolutamente. Mm-hmm. È un'iniziativa di eccellenza che ha portato negli Stati Uniti moltissima diffusione tra tutti gli stati della popolazione, informazione, strumenti di educazione, strumentario per far passare i messaggi, certo, che è la cosa più difficile. Cosa sono invece gli Stati Generali dell'Educazione Finanziaria che partono oggi? È un momento comune di riflessione su questa materia per provare a capire insieme perché in Italia siamo ancora così indietro, cos'è che non funziona, dove sono le radici di questo problema, che oggi, come diceva la professoressa Lusardi, è davvero urgente, perché abbiamo bisogno tutti di essere un po' più attrezzati per entrare nel sistema economico in generale, per condurre una vita sociale di soddisfazione e avere un futuro un po' più sicuro. Ma secondo lei come mai andiamo così male? Siamo gli ultimi della classe? Ci sono vari motivi. I geni sono buoni. I geni sono buonissimi. Peccato che non abbiamo forse abbastanza attenzione per questo tema. Sui ragazzi ci sono diversi motivi. I nostri ragazzi sappiamo che nei contesti internazionali già vanno un po' più male in matematica e in lettura. Vanno ancora più male sul fronte dell'educazione finanziaria. E questa cosa qui è un pochino da considerare, perché potrebbe essere che le modalità con cui vengono insegnate matematica e lettere nel nostro paese implichino poi un po' meno capacità, un po' meno competenze nell'affrontare i problemi quotidiani di educazione finanziaria, di alfabetizzazione finanziaria. Certo, no, è interessante tra l'altro questo ragionamento di continuo confronto che facciamo, perché professoressa Lusardi, mi rivolgo a lei perché l'esperienza americana, a cui guardiamo sempre con grande ammirazione, poi in realtà scopriamo che è costellata anche da una serie di errori che gli americani fanno, perché se oggi parliamo della crisi attuale, nella quale siamo infilati da quasi un decennio, perché è partita tra il 2006 e il 2007, è stata un po' anche responsabilità di questi americani straindebitati, i mutui subprime, quindi non è che siano poi tutti questi modelli da seguire, no? Straindebitati e tutte, poi sull'educazione finanziaria sono un po' più preparati, ma dove sta la verità? Quello che dice è molto importante, perché quando abbiamo visto anche nei dati che in realtà non sono i paesi che hanno il più alto livello del reddito o i mercati finanziari più sviluppati ad avere una maggiore conoscenza finanziaria, a dimostrazione che la conoscenza finanziaria non si acquisisce respirando l'aria o per osmosi, si acquisisce ad esempio perché c'è nelle scuole. o si acquisisce perché è offerta nel posto del lavoro, e per questo non sono a volte gli Stati Uniti il paese che ha fatto delle iniziative forse più interessanti o anche più effettive, ma sono altri paesi, e questi paesi ad esempio sono adesso al top della classifica per quanto riguarda la conoscenza finanziaria. Perché l'hanno portata nelle scuole? Direi in particolare nelle scuole, e secondo me bisogna partire da lì. Dobbiamo investire nelle scuole, dobbiamo investire nelle generazioni future, perché hanno di fronte a loro un mondo molto diverso, più complesso, molto più complesso che nel passato, ed è veramente importante investire nella scuola. Questo ci permette non soltanto di raggiungere un grande numero di persone, ma ci permette secondo me anche di avere più eguaglianza. Un'altra cosa che abbiamo visto nei nostri sondaggi è che ci sono delle differenze grandissime, e non soltanto tra poveri e ricchi, e questa diseguaglianza continuerà ad alimentarsi, ma anche tra uomini e donne. Ed è secondo me estremamente importante anche per questo discorso di conoscenza finanziaria delle donne di partire dalla scuola. Adesso parleremo anche del cosiddetto donne di denari, del gender gap, della differenza di genere. Su questo tema mi sono portata un articolo della professoressa Lusardi, sintetizzato sul suo blog sul Wall Street Journal, che racconta proprio di questo. Allora andiamo a sentire i nostri amici che bussano alla nostra porta. Ma dai, chi preferisci? Allora Loris da Bologna, buongiorno Loris. Buongiorno. Allora, ci dica un po', non la interrogo sull'inflazione, sul tasso composto, perché sennò, perché non è carino da parte mia. Però una domandina sul rischio mi sentirei di fargliela. Lei i suoi risparmi come li gestisce, Loris? È consapevole dei rischi che assume quando fa una scelta finanziaria, piccola o grande che sia? Perché qua non è che quando uno parla di rischio parla solo di investire in azioni e obbligazioni, anche comprare una casa comporta assumersi un certo rischio, Loris. È vero. Come concepisce lei questo concetto? Ecco. Io cerco di farlo. Io vi cercavo proprio per questo, perché mi chiedo e vi chiedo se un giornale importante come il vostro, che è un giornale che si occupa appunto di finanze, eccetera, non possa anche guidarci in un percorso educativo. Esempio, ma lo sta facendo, Loris. Adesso Loris, stiamo pubblicando tutti i martedì i tuoi soldi. Facciamo sempre la trasmissione. Se l'è persa, Glieli mando tutti, guardi, Loris. Ecco, la ringrazio, perché non sempre io riesco. Mi sono chiesto, per esempio, siccome voi fate la pubblicazione periodica, non so, di opera lirica attraverso dischetti che voi aggiungete. Loris, non si scavi la fossa. Ecco, allora, ogni martedì c'è i tuoi soldi, è il manuale di educazione finanziaria. Abbiamo fatto puntate in ogni lingua, allora, ci mancava quindi solo l'aramaico, e l'avevamo fatta in tutte le lingue. Quindi, per i Loris all'ascolto, addrizzate le antenne. È che quando parliamo di soldi, proprio niente, si staccano le antenne nelle persone. Lì bisogna fare la respirazione. Senti, allora, per i Loris all'ascolto, esatto, dove andate a recuperare tutte queste informazioni che Mamma Sole ci aiuta a seguire? Quindi, allora, adesso qua lo chiediamo al nostro marketing. Noi ne abbiamo un po' in casa nostra, Loris, prendiamo i suoi riferimenti e glieli mandiamo, così almeno vede con i suoi occhi che iniziative ne facciamo. Però, dottoressa Bianco, forse un censimento di pubblicazioni semplici, siti a cui andare a attingere queste informazioni, perché di Loris da Bologna in giro per l'Italia ce ne sono tanti. A noi sembra che ci sia un overdose di pubblicazioni e iniziative. Per qualcuno non si fa nulla. Com'è possibile? Questo è il problema, è il vero problema. La moltiplicazione delle iniziative, ne abbiamo tantissime. Tante sono di ottima qualità, di qualità elevata, producono del buon materiale, fanno delle cose buone, ma sono tante e disperse. La frammentazione è uno dei problemi di cui discutevamo prima, che non ci consentono di raggiungere un risultato grande, significativo nel paese. Ci sono tante iniziative, ce ne sono alcune grandi, di portata significativa, però tante sono piccole, molto frammentate, hanno obiettivi un pochino diversi, non sono riconoscibili al grande pubblico, a volte usano degli strumenti che non sono proprio efficaci. Noi oggi sappiamo che parlare di educazione, di finanza, di economia è difficile, è noioso, dobbiamo costruire uno strumentario adatto. Molti di questi progetti non hanno le dimensioni sufficienti per fare questo. Allora ci vuole un percorso un po' più unitario, un po' omogeneo, che sia riconoscibile al pubblico. Una cosa che ci raccontano le esperienze degli altri paesi è ci vuole un portale nazionale, un unico luogo che poi ci porti nei portali delle singole istituzioni come la Banca d'Italia, certo, come la Consob, l'ANAS, l'Associazione dei Promotori Finanziari, di tutti quelli che fanno, esatto, che fanno tantissime cose, però il cittadino, la persona non riesce ad andare a cercare, a inseguire i singoli siti. È normale, è giusto che sia così. Ci vuole un unico luogo riconoscibile a tutti, che poi eventualmente sposti, convogli, guidi nelle altre direzioni, ma che sia facile da raggiungere, che sia visibile e che abbia un po' di omogeneità di messaggio. Avete già allo studio qualcosa, a parte le audizioni al Senato, la consapevolezza su questo problema, già un'idea di come concretizzare questo percorso? Ce l'avete, dottoressa? E potrebbe essere, dovrebbe essere la Banca d'Italia, secondo lei, a farsi carico di questo impegno? Dovremmo essere, come negli altri paesi succede, le istituzioni che si occupano della materia. Noi stiamo lavorando con la Consob e con le altre istituzioni finanziarie, l'IVAS e la Covip, ma in coordinamento con il Ministero dell'Educazione e dell'Istruzione e il Ministero dell'Economia, per costruire un percorso congiunto che vede tra i passaggi fondamentali la costruzione di un portale nazionale. Benissimo. Unico, omogeneo. Sì. Allora, adesso credo che abbiamo un impegno inderogabile. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma restate con noi. A tra poco. Cuore e denari. Eccoci qua che siamo ritornati insieme, Debora. Esatto. No, allora, sveliamo ai nostri ascoltatori la curiosità che avevamo con le nostre ospiti a microfono sì, spento, perché il parallelismo tra il fatto che noi facciamo questo percorso insieme, no, di denari e salute, in realtà ha moltissime sfaccettature, anche stamattina sì, vengono fuori. Perché sono due temi difficili da trattare, da cui uno... Però che interessano tutti, ecco. E poi quando le persone stanno male, e dal punto di vista della salute e dal punto di vista dei denari, chiaramente scoprono le loro lacune. Ecco. Perché? Riflettevamo su questo proprio per intrecciare un po' i due temi. Uno stile di vita non adeguato, noi lo sappiamo che dal punto di vista della salute, del benessere, nel breve e nel lungo periodo qualche acciacco ce lo porta, non voglio fare. Poi ci sono persone che fumano, bevono e non fanno un passo e arrivano a 150 anni, però ecco, in generale. Ecco, che cosa comporta questa ignoranza finanziaria? Che cosa può succedermi? Perché forse è anche questo che l'uomo o la donna media non percepisce, perché dico, vabbè, senti, io no, mi tengo i miei soldini in banca, a me che cosa mi frega dell'inflazione, del tasso composto, esatto, del rischio, non rischio niente perché li tengo sotto il materasso. Professoressa, cosa può succederci mai di male? Ci sono grandissimi costi in realtà dell'ignoranza finanziaria, invece di dirlo in negativo lo dico in senso positivo, sì, no? Certo. I nostri studi mettono in evidenza che chi sa più di finanza innanzitutto pianifica di più, risparmia di più, investe meglio e si indebita di meno. Quindi e soprattutto, ed è la cosa più importante, è più felice. Questo è l'obiettivo finale della conoscenza finanziaria, cioè lo stare meglio. Mi piace moltissimo l'analogia che lei ha detto sulla salute e noi ne parliamo sempre, facciamo questa analogia con la salute, proprio come per la salute è meglio fare prevenzione che tagliare la gamba quando il male è andato troppo avanti. Certo. Hai visto? Anche oggi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Una soddisfazione. Esatto. Ciao Focus Group, potremmo dire così. Insomma, speriamo oggi di avervi accontentato come, non dico banalizzazione del linguaggio, ma averlo reso più fruibile appunto a tutti, il linguaggio finanziario. Purtroppo, dottoressa Bianco, anche la finanza, come dire, qualche volta utilizza una terminologia dalla quale non può prescindere, ma che è veramente complicata. Esatto. Parlar meglio, anche la finanza, se si parla, se fosse un po' meno referenziale, sarebbe assolutamente anche questo un bellissimo dobbiamo risultato fare raggiunto. Molti passaggi in questo senso, c'ha ragione. Allora, qua chi abbiamo adesso? Giusy da Brescia, prendiamo una bella donna a interagire con noi. Giusy, benvenuta. Buongiorno. Allora, Giusy ha la sua teoria sul perché gli italiani sono arretrati in ambito di conoscenze finanziarie. Giusy, perché? Perché secondo me c'è una grande nostalgia di un tempo che non c'è più, cioè quello dove io portavo i miei denari in banca, facevo un bot e per un anno non ci pensavo più e non mi interessava nulla di quello che succedeva intorno, tanto io sapevo già quanto avrei avuto di remunerazione, ero tranquilla e mi dedicavo al resto della mia vita. E si era più felici, Giusy? Io sono un promotore finanziario, la percezione che ho è questa, che con tanta fatica si cerca di aiutare la gente, soprattutto quella un po' più vissuta, diciamo, a staccarsi da un mondo che si ricorda come bellissimo. E invece ora serve più fatica. Infatti, forse su questo i nostri giovani, anche se alfabetizzati dal punto di vista finanziario un po' meno rispetto agli altri in Europa, ci aiuteranno in questa trasformazione. Il grosso problema è quello delle nostre generazioni, che è ancora un po' ancorato al passato e non percepisce ancora bene questi cambiamenti così importanti che ci stanno riguardando, anche se poi grandi fatti finanziari accadono lontani da noi, Giusy, in realtà poi si ripercuotono nel nostro portafoglio direttamente. Annuivano le nostre ospiti sulle considerazioni di Giusy. Dottoressa Bianco. La dottoressa ha centrato esattamente il problema, credo, della nostra cultura italiana. Noi veniamo da un passato, da un percorso in cui il ruolo dello Stato è stato sostanzialmente pervasivo sul fronte delle pensioni, sul fronte degli strumenti finanziari in cui investire, i titoli pubblici, ma anche, lo diciamo oggi, sul fronte della regolamentazione bancaria che aveva delle tutele massime. Questo ci ha consentito, come diceva la dottoressa, di dormire sonni tranquilli e di non dover fare tante scelte, tutto sommato, a differenza di altri paesi che invece già in passato esponevano i cittadini a fare comunque delle scelte autonome. Il cambiamento nella prospettiva attuale ci impone di fare un salto purtroppo molto rapido e questo è molto faticoso per tutti, certo. Purtroppo dobbiamo passare a un mondo diverso. Professoressa Lusardi, lo abbiamo lanciato poco fa, però magari una piccola riflessione sulla differenza di genere rispetto alle conoscenze finanziarie. Allora, uomo o donna, adesso non si può banalizzare, le generalizzazioni non vanno bene, ma le evidenze scientifiche ci sono. Chi vince sulle conoscenze finanziarie? E guardi, in tutti i paesi del mondo, letteralmente quasi in tutti i paesi del mondo, le donne sanno meno di finanza degli uomini, ma c'è un altro risultato di cui io voglio veramente parlare perché mi sembra molto importante, e questo è anche un altro risultato che è praticamente presente nella maggior parte dei paesi, ovvero che anche se le donne sanno di meno, sanno di non sapere. E questo è secondo me estremamente importante quando si fanno decisioni di finanza. Io sono convinta che le donne siano abbiano le capacità in realtà ideali per decidere di finanza. Un po' di cautela ci vuole, in particolare quando si sa poco. Allora, sentiamo Antonio da Bologna, poi stiamo già andando verso le nostre conclusioni di oggi. Peccato. Volevi continuare? Sì, mi sarebbe piaciuto. Vediamo se ci danno domani anche un altro spazio, forse smantellano tutto qui al salone. Antonio da Bologna, velocissimo, prima dei saluti, grazie. Sì, buongiorno, volevo solo evidenziare che sono i programmi scolastici a non portare il vantaggio, la conoscenza del mercato finanziario. Cioè l'interesse composto, si studia solo a ragioneria, non è solo esatto. A scuola. Quindi il problema è questo, cioè è una formulina semplice, 1 più I alla T moltiplicato il capitale, per cui non è una cosa impossibile da studiare. Bravo, è promosso. Bisogna studiarlo in tutte le scuole, per me addirittura in terza media, guardi, senza imparare il ritorno indietro, ma la terza media va studiato. Grazie molte Antonio, ma avete visto che in realtà forse saranno anche gli ascoltatori di Radio 24 che i magari così esatto, però ne sanno e hanno le idee molto chiare su certi argomenti. Che ne avete pensato stamattina? Assolutamente Magda, sì. Magda Bianco. Due collegamenti, due risposte fondamentali al come, al perché abbiamo certo. dei problemi. Non li abbiamo nei curriculum infatti. Scolastici, è questo a cui bisogna puntare. Anna Maria Lusardi, 30 secondi anche a lei prima di concludere, poi a nostro dispiacere la dovremo rimandare a Washington, ma lei ha un suggerimento per l'Italia, per darsi una mossa su questo tema, ce l'ha? Guardi, voglio riprendere l'argomento del precedente, la persona che ci ha ascoltato. Così come abbiamo combattuto l'analfabetismo nel passato, adesso dobbiamo combattere l'analfabetismo finanziario, e lo si fa partendo dalla scuola. Mi pare che più cristallino di così non possa essere il messaggio conclusivo. A malincuore lasciamo il Salone del Risparmio, noi abbiamo la nostra sentiranno conferenza la nostra mancanza. Esatto, oggi pomeriggio abbiamo la conferenza di Radio 24 che potete seguire in streaming, Investire Informati. A tutti buona giornata, grazie ad Anna Maria Lusardi, a Magda Bianco, a grazie, Nicoletta. Grazie, ciao. A lunedì. A lunedì.